love our cannabis cigarette. And when I was smoking the cigarette, oh, yeah. When I was smoking the cigarette, oh, yeah. When I was smoking the cigarette. Parte di mondo che tu neanche soffi via, neanche il fatto che dopo il legno ci sta il grigio e quindi che dopo i nodi ci stanno le risoluzioni, dopo l'apertura ci sta la chiusura, dopo la chiave ci sta l'apertura. Comunicato non mi fa vedere.